ancora ore 10:47 di lunedì 13 ottobre. Mi ha abbandonato proprio ieri la Focus, quindi mi trovo sulla macchina di mia moglie, una piccola Y10 sicuramente tenuta molto meglio, molto meno becera. Intervengo per commentare innanzitutto la campagna istituzionale di Telecom Italia, tutta incentrata sullo spettro di un mondo senza comunicazione. Sicuramente avrà raggiunto il suo target di persone ancora evidentemente assetate di comunicazione, però ecco, nei confronti degli addetti ai lavori, categoria di cui faccio parte, credo che questa campagna abbia suscitato una sorta di crisi di rigetto, perché semmai noi vediamo un eccesso di comunicazione, un information overload, del quale soffriamo in prima persona, ma vediamo anche molte altre persone, forse più inconsapevolmente, essere vittime e al tempo stesso carnefici, perché quando si ha un telefonino si è vittima e carnefici al tempo stesso. Poi soprattutto mi pare che questo eccesso di comunicazione produca effetti politici ed economici notevoli, anche perché si tratta soprattutto di comunicazione menzognera, e più cresce il ruolo della comunicazione nella società e più cresce il numero di bugiardi. Quindi francamente la sola lista di queste cornette senza altoparlante o cartelli stradali senza scritte in realtà, almeno personalmente, ha generato un senso di sollievo piuttosto che di paura. Credo comunque che tra una decina d'anni questa campagna sembrerà vecchissima, un po' come quelle campagne, le vecchie campagne delle ferrovie dello Stato, in cui si vede la gente fumare negli scompartimenti per segnalare il proprio benessere, la propria appartenenza ad una casta privilegiata.